Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Allora, per quello che riguarda la borsa, in primo luogo oggi è una giornata di recupero soprattutto per Milano, più 1,90%. Milano, dicevo, tra l'altro erano in rialzo quasi tutte con l'eccezione della Germania. E sulla Germania ci sono notizie, c'è un calo abbastanza sorprendente per l'intensità nella fiducia dei consumatori e altre notizie, fatto sta che la Germania è invariata mentre Parigi più 1,15, Londra più 0,14, l'America mezzo punto percentuale. Tra i titoli vola Yux più 6,15, ma anche Fiat intesa come CNH Industrial più 5,20%. Fiat come titolo guadagna lo 0,50%, ma a breve alle 19, se non ricordo male, vi sarà l'attesa conferenza stampa da un lato del premier Renzi ma anche di Sergio Marchionne. Da quello che abbiamo capito, Renzi infatti sta visitando la sede, la fabbrica della Chrysler, della FCA, come si chiama adesso, gruppo Fiat Chrysler Automobiles. UbiBanca più 5, Banco Popolare più 4, Popolare Emilia Romagna più 2,80, Intesa più 2,60, Monte dei Paschi più 2,30 come Atlantia, Tenaris più 2,1 come Unicredit, Azimut e anche Enel. World Duty Free guadagna l'1,90 come A2A Eterna. Chi perde? Poca roba, solo Pirelli, meno 0,40%. Ancora, dicevamo dei temi, continua il nostro viaggio nei settori produttivi. Abbiamo fatto, vado a memoria, il marmo, il tessile, l'automotive, c'è qualcuno sicuramente che mi sfugge, la nautica, mi segnalano giustamente dalla regia, ormai anche il conduttore batte i colpi in testa il venerdì. Comunque la nautica ci mancherebbe, perché poi c'è il salone nautico di Genova. Oggi sarà la volta del settore agroalimentare inteso come lattiero caseario e poi la prossima settimana continueremo. Perché e qual è il criterio, lo dico perché alcuni ci scrivono, con cui scegliamo questi settori? Sono settori che, nonostante il PIL e l'Italia in recessione quest'anno, hanno aumentato il fatturato. Lo hanno fatto, ahimè, o per fortuna, quando lo aumenti è sempre per fortuna, soprattutto se non esclusivamente con l'export, e il fatto che si vada dalla nautica al latte, dal marmo all'abbigliamento, fa capire una cosa sola, che questa crisi strutturale per alcuni versi, congiunturale per altri, sta livellando anche quello che è la fotografia che esce dei nostri settori produttivi, ossia poi le letture sono molto simili, quota dell'export che ormai ha raggiunto 70-90%, quota dei consumi interni che è crollata, in alcuni casi quasi scomparsa, ma comunque crollata a livelli che difficilmente si rivedranno, necessità per le imprese di presidiare quei mercati, ripeto, al di là del settore merceologico, visto che quelli che stiamo citando sono i più svariati. E appunto continuerà il nostro viaggio anche oggi, poi ci occuperemo del PIL americano. Perché lo dico? Perché alle 18, perché il PIL americano è stato diffuso, dovremmo occuparcene verso le 18, ed è rivisto al rialzo del 4,6%, al rialzo rispetto alla prima, alla seconda stima che era del 4,2. Questa è quella che si chiama lettura finale. Più 4,6% è la crescita più forte negli Stati Uniti dal quarto trimestre del 2011, grazie a un aumento degli investimenti da parte delle aziende e dei consumi, perché in America la crescita non si fa con l'export, o non solo, non tanto con l'export, ma con i consumi interni e con gli investimenti. Gli investimenti delle imprese sono saliti del 10%, i consumi in America sono aumentati del 2,5%. Anche in America i consumi rappresentano il 70% del PIL, da noi la quota era abbastanza simile. Si può fare di più, dice la Casa Bianca, oggi c'è qualche dato di aumento di sussidi alla disoccupazione, ma per quello che riguarda le prossime mosse dell'America, nel caso specifico della Federal Reserve, il presidente della Federal Reserve di Dallas, Fisher, ha detto probabilmente se la ripresa continuerà con questo passo potremo alzare i tassi verso la prossima a primavera e non più in estate, quindi anticipare un rialzo dei tassi di interesse. Ancora sempre Fisher ha detto attenzione, negli Stati Uniti abbiamo un eccesso di liquidità, cioè troppi soldi stampati, diciamo, che circolano, di 2.500 miliardi di dollari. Questo vuol dire che non c'è sufficiente domanda di credito e solo un quinto di questo eccesso è in capo alla Fed, e questo ci consente di tenere i tassi bassi. Comunque, insomma, se l'America continuerà a crescere in questo modo, partirà un rialzo dei tassi di interesse che segnerà a questo punto anche ufficialmente la fine a tutti gli effetti della politica economica per superare la crisi, partirà a primavera del 2015. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Allora, un po' di pazienza, chi ci scrive sulla crescita americana, sull'accelerazione del PIL americano. C'è un'altra notizia importante invece, o meglio, è importante anche se riguarda il mondo della finanza in senso stretto. Bill Gross ha lasciato PIMCO, che è il maxi fondo di investimento da lui stesso fondato. Passerà a Janus Capital, dove gestirà il fondo Janus Global Unconstrained Bond Fund. Praticamente Grass lavorerà nel nuovo ufficio e vabbè, chi se ne frega. Il problema è che, come si è avuta la notizia che Bill Gross lascia uno dei principali fondi comuni di investimento PIMCO, e il titolo Janus, dove andrà a lavorare, ha guadagnato il 20%. PIMCO, se ho ben visto, era calato, e anche pesantemente. Ma la cosa più interessante è che, secondo alcune indiscrezioni, l'uscita di Gross è legata a gravi attriti con il fondo stesso, che lo avrebbe voluto comunque licenziare. Lui è un po' un mito nel mondo della finanza. Perché la SEC, l'autorità di vigilanza della borsa americana, ha aperto un'indagine su PIMCO, lo si è scoperto due giorni fa, se non ricordo male. PIMCO tra l'altro è il più grande fondo quanto a obbligazioni al mondo, ed è sospettato di avere gonfiato i rendimenti di uno dei suoi fondi di investimento. La società californiana ha detto che sta collaborando con l'autorità, si tratta di una faccenda privata. L'inchiesta è stata svelata dal Wall Street Journal e sarebbe in corso da diversi mesi. In Svizzera, intanto, veniamo all'Europa, gli svizzeri saranno chiamati a votare sul mantenimento del segreto bancario. Un comitato composto da partiti di destra ha infatti raccolto più di 117.000 firme in favore del referendum, e in Svizzera ne bastano 100.000 per indire un referendum. Ora, noi tre giorni fa abbiamo fatto un approfondimento sulla Francia, dicendo attenzione, forse non si può dire mal comune mezzo gaudio, ma se c'è un paese dove fare le riforme può essere più difficile rispetto all'Italia, ci riferiamo chiaramente all'Europa, è la Francia, visto le lobby contrapposte, le caste contrapposte, le tutele, il ruolo dei sindacati, il ruolo delle associazioni di rappresentanza e quant'altro, il ruolo dello Stato nell'economia. Allora, e commentavamo giustamente la fine, quella che immaginavamo essere una fine dello sciopero, visto che l'azienda Air France aveva di fatto calato le braghe nei confronti dei piloti, dicendo bene, non facciamo la compagnia low cost europea che avrebbe avuto i contratti dei paesi di origine dei piloti. Ma in realtà eravamo stati anche buoni, perché lo sciopero non si è mai fermato, come abbiamo raccontato anche nei giorni scorsi, e oggi siamo al 12° giorno di sciopero per i piloti. Tra l'altro cresce anche la tensione sulle trattative con la direzione. Ieri non si è fatto nessun passo avanti. Oggi è stato il CDA a intervenire dando il suo pieno sostegno alla proposta fatta dalla direzione, e compreso l'appello ai piloti perché riprendano subito il lavoro. Perfino l'opinione pubblica francese, che non è critica nei confronti del chômage, mi sembra che si chiami, dello sciopero, inizia a essere un po' più scettica. Il 69% considera che il proseguimento dello sciopero sia ingiustificato. Però i piloti, o meglio il sindacato SPAF, che è il secondo per numero tra i piloti, ha prolungato di 2 giorni il proprio preavviso di sciopero, quindi lo sciopero potrebbe essere prolungato fino a martedì. E SPAF si sta allineando al primo sindacato dei piloti francesi, che si chiama SPNL, che fin dall'inizio si è dichiarato intenzionato, insomma, a continuare la mobilitazione fino alla fine del mese in mancanza di un accordo. Buona notizia dalla Spagna. La Spagna, ahimè, lo dico ahimè, fu bene per gli spagnoli, male per noi, ha un andamento divergente rispetto a quello italiano, perché ha rivisto le stime sul PIL, ma non al ribasso come abbiamo fatto noi preparandoci a un altro anno di recessione, ma al rialzo. Nel 2014 la Spagna farà più 1,2 dall'1,2 all'1,3, quindi va verso l'1,3. Nel 2015 non farà più 1,8 ma il 2%. Faccio notare che l'Italia l'anno prossimo, se va bene, farà lo 0,5. Nel frattempo c'è qualcuno che continua a scrivermi: ma magari arrivasse la troica, quindi il commissariamento dell'Italia. Attenzione, perché poi, però, non so, in Grecia, vedi la Grecia, la Grecia intanto la cura della troica ha messo in ginocchio un paese, a nostro avviso si poteva ottenere le stesse cose senza, anzi, ha messo in ginocchio un paese colpendo i soliti, perché non è che l'evasione fiscale, che in Grecia è anche più alta che in Italia, sia terminata, andare in Grecia per credere, ha ridotto parecchi privilegi dei pubblici dipendenti, questo è verissimo. Ma a 6 anni dall'inizio della crisi economica e della recessione che hanno colpito la Grecia, la percentuale di greci che è a rischio povertà è ormai al 58,3%, cioè praticamente su 11 milioni di persone, che sono tutti gli abitanti della Grecia, 6 milioni e 3 sono a rischio povertà, quasi 2 milioni e mezzo vivono già al di sotto della soglia di povertà e 3 milioni e 8 sono in pericolo diretto di oltrepassare tale soglia. No, così ci ricordiamo che cosa vorrebbe dire un eventuale commissariamento dell'Italia. Alcuni ne parlano, a mio avviso, la fanno un po' troppo facile. Qualcuno mi chiede: se tutti scappano da PIMCO scoppierà la bomba atomica delle obbligazioni. Non lo so, non facciamo dietrologia né scenari. Quello che abbiamo visto sull'addio di Grossi, il fatto che ci fossero dei contrasti, è noto, e che ci sia un'inchiesta della SEC è altrettanto noto, lo ha scoperto, ripeto, il Wall Street Journal. All'Italia, allora, qualche buona notizia, o meglio, le buone notizie in Italia arrivano in questo periodo soprattutto da due fronti. Uno, la borsa. So che c'è chi mi dice: ma la borsa, guardi che è calata. Ho capito, ma una settimana fa l'indice ha toccato i livelli che non vedeva da gennaio 2008, poi ha ritracciato. Insomma, vedere anche oggi che Piazza Affari cresce del 2% con un'economia che non cresce del 2% ma cala anche quest'anno dello 0,5, mi fate dire che la borsa è una buona notizia presa complessivamente? Allora, la borsa più 2%, l'altra buona notizia a mio avviso è l'euro, che anche oggi è sotto quota 1,27 a 1,2697, e quindi inizia a stabilizzarsi in maniera significativa sotto quota 1,30 e magari si avvicinasse a 1,20, perché noi siamo per un euro sempre più basso nei confronti del dollaro. La terza buona notizia in questo periodo riguarda le nostre aste, quindi quando dobbiamo collocare il nostro debito sui mercati. Perché lo dico? Perché anche oggi il Tesoro ha collocato tutti i 7 miliardi di euro a 6 mesi, con un rendimento in leggero rialzo allo 0,23% contro il minimo storico toccato praticamente ad agosto, 0,13%. Ma un'ottima domanda, che è una cosa molto importante, perché la domanda di bot italiani a 6 mesi era pari a 13 miliardi di euro, superiore il rapporto tra domanda e offerta rispetto a al mese di agosto, e quindi nessun problema nel collocare il debito. Jobs Act, non ci sarà alcun pasticcio, condivido la lettera e le parole del ministro Poletti, faremo una riforma fatta bene che sarà degna di questo nome. Così Matteo Renzi da New York, dopo aver incontrato la comunità italiana e prima dell'incontro di oggi con Marchionne e con la Fiat Chrysler. Non ci sarà nessun pasticcio, condivido alla lettera le parole di Giuliano Poletti. Ok, vi basta fare fatto? Io vi dico questa, ve la ridico per benino. Non ci sarà nessun pasticcio, faremo un lavoro fatto bene e avremo una riforma del lavoro degna di questo nome. Allora, altre due notizie in breve. La CEI, la Confederazione dei Vescovi Italiani, che dice a Renzi deve ridefinire l'agenda delle priorità, scuola, famiglia e lavoro. Non è questione se Renzi piace a noi o no, bisogna chiedere alla gente se sta trovando risposte. La nostra impressione è che ci sia da ridisegnare l'agenda politica mettendo come priorità la famiglia, lavoro, i giovani, i temi della formazione e della scuola, ma non annunciandoli, affrontandoli veramente. Oh, posso dire una cosa, ma porta un po' di sfiga andare, il nostro Presidente del Consiglio va andare all'estero. Ogni volta che vanno all'estero, gli ricordo Prodi, manca una missione di Berlusconi, questa volta Renzi, capita qualcosa in Italia, perché la settimana insomma ha visto parecchi attacchi a Renzi, e non mi riferisco solo all'editoriale del Corriere della Sera del direttore De Bortoli. Oggi chiudiamo la settimana con la CEI che dice deve ridefinire la sua agenda. Ancora, per quello che riguarda invece l'articolo 18, continua la CEI, la Chiesa pensa che bisogna guardare con più realismo alle persone che non hanno lavoro e che cercano lavoro. Il dibattito sull'articolo 18 è meno centrale e vi vedo troppe bandiere che sventrano. Così il Monsignor Nunzio Garantino, che è il segretario generale della CEI. Allora, facciamo una cosa, andiamo in meteo e pubblicità. La borsa ha appena chiuso più del 91%, poi inizia il viaggio nel settore lattiero-caseario e poi anche l'appuntamento con gli Stati Uniti e, se ce la facciamo, se non ci sono problemi di collegamento, anche la visita di Renzi negli stabilimenti Chrysler. Sì, parliamo del settore agroalimentare italiano, nel caso specifico di quello che si chiama lattero caseario. Perché? Perché voi sapete che in questo programma da sempre, ciclicamente, intervistiamo i numeri uno anche dei grandi gruppi italiani e anche dei grandi gruppi nel settore agroalimentare, ma lo facciamo ancora di più volentieri perché il settore agroalimentare è uno di quelli che più ha contribuito al buon andamento in questi anni dell'export italiano. È anche uno di quelli che a livello di congiuntura è un po' più in difficoltà, e qui il motivo si chiamano sanzioni russe per via della crisi ucraina, oltre che anche un calo della domanda per esempio di latte in polvere cinese, ma è anche l'occasione, come sempre in questi casi, per farsi dire da manager di grandi gruppi che hanno centinaia di punti vendita e hanno il polso della situazione. Qual è la situazione che loro fotografano all'esterno? Che cosa manca al paese? Quali consigli possono dare ai loro, diciamo così, colleghi, anche se si dovessero occupare o se si occupino di altri settori? E allora ringrazio il presidente di Granarolo SPA, Gian Piero Calzolari, per averci raggiunto in studio. Buonasera, presidente. Buonasera a voi. Dunque, voi siete un gruppo bolognese fondato nel 57. Operate in tutto il settore del latte fresco, lattiero caseario, yogurt, dessert, gelati, panna, lunga conservazione fresca, formaggi freschi, stagionati, mi sta venendo fame, alimenti per l'infanzia a base di latte, e avete dei marchi che sono marchi importanti, avete fatto anche un'acquisizione di marchi continua, Granarolo, Yomo, Pettinicchio, Centrale del Latte di Milano, Prima Natura Bio, Iomino, 2100 dipendenti, 8 siti produttivi, un giro d'affari di quasi 1 miliardo di euro, 930 milioni, e avete chiuso 2013 con un utile di 9 milioni di euro, che non è tantissimo, ma è sempre un utile. Il gruppo è controllato al 77% da Grana Latte, che è una società, è un consorzio cooperativo con 650 produttori dentro, 17 cooperative. Poi un altro 20% ce l'ha Intesa San Paolo, quindi la banca, e un altro 2,7 Coper Latte. Vorrei parlare con lei anche dell'estero, visto che ormai siete arrivati ad avere quasi un quinto del fatturato che si realizza all'estero, e non è facile sul latte fresco, sui prodotti caseari. Avete anche diverse controllate in Gran Bretagna, Irlanda, Francia e Spagna, e volete crescere in Cina, Stati Uniti, Canada e Russia. Quindi ce n'è a sufficienza per chiederle a come state monitorando e quali sono i dati che avete sui consumi italiani, perché noi stiamo ragionando di questo PIL che non cresce, di un'economia che non cresce, anche e soprattutto perché i consumi non ci sono. È vero che avete notato anche nel 2013 un calo perfino del latte to court, cioè che all'inizio per risparmiare si passava dal latte fresco a quello a lunga conservazione, e poi invece il calo è stato anche sul latte a lunga conservazione? Sì, il calo può sembrare paradossale perché il latte è un alimento primario, però ormai da un paio d'anni il trend è proprio questo, il calo dei consumi di latte nelle sue diverse articolazioni. Poi ci sono alcune eccezioni, per esempio il del lattosato che sta andando molto bene, ma diciamo rappresentano ancora delle nicchie. Cala sostanzialmente il consumo di latte per un fattore economico, probabilmente anche per un fattore culturale, per una composizione diversa delle famiglie, insomma una serie di situazioni che convergono però in questo dato. L'estate ha confermato pesantemente questo andamento negativo. Cioè, però dire che è un cambio culturale è un po' diverso da dire che è un elemento economico, cioè, nel primo caso vabbè, uno beve meno latte perché sceglie altri alimenti, nel secondo invece è l'ennesima indicazione di una difficoltà economica delle famiglie italiane, cioè meno 5% nel 2013 sul 2012. Non penso che sia attribuibile a un calo culturale, a un cambiamento culturale, penso che sia attribuibile a un problema economico delle famiglie. Le due cose si sommano, teniamo conto che il latte è anche un prodotto che viene consumato nella nostra dieta sostanzialmente al mattino con la colazione, le famiglie sempre meno numerose, un'abitudine alla colazione non più in famiglia ma nei luoghi di lavoro. Sicuramente le due cose coincidono, c'è anche un'attenzione allo spreco, ovviamente anche questo, certo, perché è un prodotto che comunque oggi viene trattato con attenzione, e questo è sia un dato culturale che un dato economico. Sta di fatto che negli ultimi tre anni il latte fresco ha perso quasi il 20% del mercato. Quasi il 20%? Negli ultimi tre anni. In tre anni. E solo in parte è stato sostituito dal latte UHT e in grande parte da altre modalità, per esempio da... Però mi scusi, poi veniamo anche alle vostre ambizioni come Granarolo all'estero, ma un 20% in meno in tre anni, che vuol dire una tazza di latte su cinque in meno, e secondo me non si spiega tanto col cambio, cioè in tre anni un cambio culturale si spiega molto con la difficoltà economica. Oggi sicuramente il dato vero che preoccupa le famiglie e che impatta è il dato economico, la difficoltà per alcune famiglie a raggiungere il pareggio di bilancio, diciamo, familiare. Quindi non c'è dubbio che, pur non essendo uno degli alimenti più costosi nel portafoglio, però incide come tutto. Ma in realtà, se andiamo a vedere, tutti i prodotti dell'alimentare italiano hanno subito un calo di consumo. Quindi. Sì, quella del latte ci ha molto colpito, perché appunto il latte, come ricordava lei, è un po' come il pane, è una di quelle cose che prima che di toccare ci pensi tre volte, anche perché spesso è latte fresco per i bambini o per i familiari, cioè un alimento insomma che è tutto buono, e quindi prima di toccare una cosa buona, cioè non è un lusso né un vizio né diciamo un valore aggiunto di altro genere, è proprio il latte come alimento primario. Senta, voi non avete comunque indicazioni di un cambio di tendenza nei consumi italiani? Ma devo dire, l'estate ha confermato pesantemente, probabilmente diciamo l'estate va sempre preso in considerazione anche dell'andamento climatico, per cui insomma va preso con le molle, ma conferma la flessione. Certo che la flessione si fermerà a un certo punto, quindi non potrà mantenere quei trend così preoccupanti, ma oggi non abbiamo assolutamente, noi come tutti coloro che stanno monitorando il mercato hanno sentore che la direzione si stia invertendo, tutt'altro. Quindi per ora gli 80 euro non sono stati utilizzati sul latte? Non so se sono stati utilizzati sul latte a discapito di altro, non sta di fatto che i nostri... Non avete segnalato. Esatto, non abbiamo. Allora, adesso andiamo con le informazioni sul traffico. Devo fare una correzione però in diretta, ho sbagliato io, il mio francese fa schifo, ve ne siete accorti. Non è chômage, non è disoccupazione, sciopero e grève, avete ragione. Il riferimento era a quanto sta capitando e continua a capitare in Francia con l'Air France. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Vedo molte domande. Il consumo del latte può essere in calo perché facciamo meno figli? Sicuramente sarà un motivo, ma qui stiamo parlando di variazioni in un tempo brevissimo e quindi dovute sostanzialmente alla crisi, nel senso che il calo demografico sia in corso in questo paese è innegabile, ma è in corso da decenni, mentre questi dati sul latte, sul dimezzamento in alcuni casi della percentuale consumata o di un quinto per quello che riguarda il latte fresco, sono degli ultimi 3-4 anni, come ricordavamo. Quindi attenzione, non può essere implicato, diciamo, un cambiamento tanto socio-demografico. E dopo le informazioni sul traffico vorrei capire invece se qualche guadagno può arrivare e qualche aumento dei ricavi può arrivare dall'export, anche perché ci sono pure le sanzioni russe in questo momento che colpiscono anche il mondo alimentare. Dopo il traffico. Allora, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, con il presidente della Granarolo SPA, Gian Piero Calzolari. Vedo, molti fanno notare che ci può essere anche un'incidenza delle diete, i nutrizionisti, alcuni dicono sbagliando, sconsigliano i latticini e di bere meno latte, molti lo segnalate. Sì, sicuramente ci sarà anche questo, consigliano il latte in soia, il latte di riso, tutto bene, però attenzione che i dati sono talmente forti che, non ripeto, a mio avviso non possono essere giustificati e spiegati solo, abbiamo in quei casi tendenze un po' più di lungo periodo con il cambio la tendenza sociodemografica, la tendenza, diciamo, dietologica, per cui si beve meno latte. Qui c'è un problema anche di consumi interni, ma le chiedo, Calzolari, l'export come sta andando e soprattutto vi hanno già fatto danni le sanzioni russe che colpiscono anche l'alimentare? Ma noi non avevamo in Russia dei volumi importanti, sicuramente quelli che avevamo li abbiamo persi, sicuramente l'impatto più pesante mi pare di capire che, insomma, alla fine quando si farà un bilancio è sicuramente quello dell'ortofrutta. La ricaduta, credo, sul comparto nostro sarà, come dire, la necessità per altri paesi, magari più abili di quanto siamo stati noi italiani a esportare in Russia, la ricaduta di quelle materie prime sui mercati locali. Quindi già il fatto che oggi ci siano una flessione del prezzo della materia prima in modo significativo per quanto parliamo di latte, in parte è dovuto a una sovrapproduzione europea, ma anche al fatto che manca uno sbocco commerciale che si riversa. Ma è vero che il prezzo del latte è calato in maniera molto pesante, ho visto dei livelli più bassi degli ultimi anni, anche perché è venuto meno non solo l'export alla Russia, ma anche una parte dell'export alla Cina, perché la Cina ha ridotto gli acquisti di latte in polvere? Dunque, la Cina ha intanto reso più complicato, diciamo così, l'importazione di prodotti alimentari con la richiesta di certificazioni aggiuntive che hanno fermato soprattutto nel tiro caseario, diciamo, la primavera, e poi qualche strascico ancora si è portato avanti durante l'estate. Per quanto riguarda il latte in polvere, diciamo, non è un nostro mercato, quindi, perché noi, come noto, abbiamo il latte più caro d'Europa, l'energia più cara d'Europa, a fare della polvere è improponibile. Noi dobbiamo puntare a prodotti di qualità che solo in parte sono prodotti che possono impattare quel mercato. Non per niente noi stiamo ragionando sulla Cina, in particolare con l'UHT, che non è considerato un latte di pregio, però per il mercato italiano, ma per il mercato cinese è la garanzia di sicurezza alimentare che deriva dalla cultura, insomma, dalla tradizione italiana e europea, quindi quello sicuramente è un mercato interessante. Cioè il pastorizzato. Pastorizzato. I cinesi cominciano a privilegiare il latte liquido, diciamo così, a quello in polvere, e questa è un'opportunità per noi, su cui stiamo lavorando. Ecco, io li volevo capire, voi fate il 17% del fatturato all'estero, no? Però, se ho ben capito, principalmente nei paesi, nelle economie mature, Gran Bretagna, Irlanda, Francia e Spagna. E va bene, lì c'è tutto, adesso noi parliamo di latte, ma c'è tutta la parte che riguarda la panna, fresche, gelati, lo yogurt, i dessert, i formaggi freschi, appunto i marchi Pettinicchio, Granarolo, e Iomola dicono lunga. Ma come pensate di arrivare in Cina, Stati Uniti, Canada e Russia? Perché lì servono anche i soldi, i volumi e la massa critica. Beh, questo direi che è un po' il problema del paese. Noi abbiamo i prodotti più riconosciuti al mondo come prodotti di qualità, di tipicità, poi siamo molto lontani invece dalla capacità di organizzare gli scambi commerciali invece che hanno paesi, non so, come la Germania, per capirci, che hanno sicuramente prodotti meno interessanti, però una capacità di organizzare una rete commerciale, una forza anche importantissima. Noi siamo molto piccoli, polverizzati, specializzatissimi per i mercati così lontani, e avere tutte queste distinzioni. Siamo 280 DOP abbiamo in Italia, ma se andiamo, non so, pensiamo all'olio, ogni produttore di olio pensa di avere l'olio migliore d'Italia. A quei mercati questa distinzione interessa, fino a un certo punto interessano volumi, commesse, costanze, prezzo. Quindi io penso che noi dobbiamo per forza fare massa critica, ci siamo dati l'obiettivo di raddoppiare il fatturato anche per questo. Dobbiamo specializzare le relazioni, quindi interloquire con quei mercati in modo meno occasionale. Oggi gran parte dei prodotti italiani vengono portati all'estero attraverso dei distributori locali che privilegiano ovviamente altre logiche che non sia quella del nostro paese. Quindi sostanzialmente abbiamo bisogno di una grande organizzazione che non si raggiunge se continuiamo a rimanere dei nani dal punto di vista delle dimensioni. Ecco, il vostro piano di portare il gelato e il latte ai cinesi, poi concretamente come si struttura? Perché noi, io ricordo sempre, la cito ogni tanto, quell'intervista, una delle ultime che abbiamo fatto con Andrea Guerra, al tempo era ancora numero uno di Luxottica, quando ci spiegò che aprire 300 punti vendita di Luxottica in Cina a lui garantiva solo ed esclusivamente la presenza nelle maggiori città, perché tali sono le dimensioni di quel paese che anche se apri 300 punti vendita sei riuscito a coprirti sulle grandissime città, non oltre. Ora, per andare a vendere ai cinesi devi avere dei volumi e una massa critica importante, non è che puoi vendere solo la nicchia di Pechino o di Shanghai. Voi come pensate di strutturarvi anche finanziariamente per questo? Beh, intanto noi pensiamo di aprire un'attività commerciale propria, in proprio, con un ufficio commerciale intanto a Pechino, poi stiamo guardando a Shanghai. Poi è vero che le grandi capitali cinesi sono ormai come in qualche modo coperte dalle grandi multinazionali anche europee che hanno già presidiato quei mercati. Diventa molto più interessante cercare di seguire la crescita nelle nuove città. Voi sapete che i cinesi, insomma, quando decidono di costruire una città hanno tempi di realizzazione molto veloce. Probabilmente lì si aprono degli spazi anche per, diciamo così, gli ultimi arrivati che siamo noi italiani. Se giochiamo invece la carta della qualità è chiaro che abbiamo un vantaggio competitivo, però ragioniamo sicuramente in termini di nicchie. Sul baby food possiamo giocare una carta importante, c'è grande attenzione. Baby food sarebbe il latte per bambini. Latte, alimenti per bambini, c'è questa nuova grande attenzione come in tutti i paesi che stanno migliorando, che le condizioni ricchi, diventano, diciamo, ricchi. Il primo bambino è diventato già il secondo, c'è una grande attenzione al futuro. Loro oggi in gran parte utilizzano latte in polvere di produzione delle grandi multinazionali. L'idea di un latte liquido italiano è sicuramente un'idea vincente, abbiamo trovato grandi riscontri. Chiaro che dobbiamo costruire, stiamo cercando di costruire rapporti consolidati con partner cinesi, e non è facile. Una curiosità mia, il latte verrà prodotto in Italia? Assolutamente sì. E veniamo all'ultima domanda, voi avete appunto stabilimenti, lo ricordavo prima, in Gran Bretagna, attraverso varie controllate, Francia, Irlanda, Spagna, volete crescere in Cina, in Canada, in America, in Russia? E avete comunque un gruppo che, ma c'è inutile, ha fatto acquisizioni, cioè siete nani a livello mondiale, ma in Italia siete grossi. Lei come manager in questo caso, che valutazione ha dato di quello che manca al paese? Lasciamo stare la congiuntura, lasciamo stare quando ripartiranno i consumi interni e come andrà l'economia europea e l'export. Però, cioè, se lei dovesse indicare una delle debolezze, perché i punti di forza li conosciamo, che cosa manca in questo momento alle imprese italiane, al modo in cui sono gestite, ai manager, se vuole anche alla politica, però di politica parliamo già abbastanza. Cioè, se dovesse dare un consiglio ai suoi colleghi che in questo momento lavorano o nel settore agroalimentare o in altri settori e che hanno e devono in qualche modo trovare altre vie di uscita, stavo per dire di fuga, ma di uscita, perché non è pensabile vivere e continuare a produrre con questi consumi interni che non ripartiranno a breve. Ecco, che cosa manca al paese? Che consiglio potrebbe dare? Ma adesso, più che un consiglio, una considerazione. Io penso che, insomma, il nostro paese abbia bisogno di investire su alcuni campioni italiani e su questi tenere la barra, perché poi è chiaro che noi peraltro in questi anni abbiamo anche, senza fare il provincialismo, però ogni volta che un'azienda italiana importante passa in mano straniere, noi perdiamo un'opportunità per il sistema, per quell'azienda magari invece ricopriremo risorse, investimenti, capitali assolutamente importanti. Quindi quello che manca probabilmente è la consapevolezza che non basta avere, parlo in questo caso per l'agroalimentare, i migliori prodotti del mondo, che probabilmente è vero o comunque in gran parte è vero, se non sappiamo proporli ai consumatori dove sono. Noi abbiamo una grande opportunità che è il turismo, abbiamo una grande opportunità che la cultura italiana nel mondo ha questo, le diceva prima, fortunatamente ci sono i cuochi, i grandi cuochi che stanno facendo un'opera importantissima. Il problema è che se io ho il cuoco poi non ho il negozio che vende il mio prodotto, è chiaro che, oppure ho un negozio che vende il mio prodotto, un parmigiano reggiano, un grana padano, delle cifre proibitive perché arriva come fosse un gioiello, è chiaro che non sfondo su quei mercati. Ma cosa manca? Non so, le banche che mettono liquidità e appoggiano operazioni importanti di carattere industriale? Sicuramente manca un... Guarda, io come noto noi abbiamo tentato questa avventura un po' disperata della Parmalat. Ecco, è mancato il paese nel suo complesso. E quindi appunto le dimensioni sono importanti anche nella rete distributiva. Grazie Giampiero Calzari, presidente di Granarolo SPA. Dai temi italiani ci sposteremo dopo il GR24 a quelli americani, ma anche all'incontro Renzi Marchionne. 349-238-6666 per gli sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. E 9 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per commentare adesso la borsa e poi spostarci agli Stati Uniti. Devo dare una risposta però a molti sms che arrivano su un tema abbastanza, anzi direi più che centrato. Mi riferisco da un lato ai dati che abbiamo raccontato ieri sui consumi degli italiani, di cui parlavamo anche poco fa col presidente della Granarolo, e quindi consumi in continua contrazione. Dall'altro alcuni mi scrivono, ma capita spesso questo, ma come fate a dire i consumi sono in calo, poi c'è la fila davanti ai negozi agli Apple Store per l'iPhone 6. Ne parleremo diffusamente lunedì con chi si occupa di consumi, perché dire che i consumi sono in calo non vuol dire che tutti siano in calo e che tutti siano in calo in ugual modo. Da anni ormai raccontiamo di una divaricazione per cui alcuni consumi vengono azzerati, altri vengono dimezzati, altri restano invariati e altri ancora sono un po' in crescita. Perché non è che improvvisamente nessuno entri più in un negozio. E nel caso specifico dell'elettronica da consumo, come si chiama in gergo, va bene, perché lì il consumatore ha torto o ragione, vede moltissimo valore aggiunto. Ne vede meno nelle automobili, ne vede meno in alcuni capi di abbigliamento, ne vede meno in altri elementi che sembravano invece di gran modo. Alcuni dicono che fossero consumi indotti, quindi consumi obbligati, indotti dalla pubblicità, non obbligati, non consumi primari. Però fatto sta che lì c'è molto valore aggiunto. Ne ripeto, ne parleremo lunedì, ma chi ha un figlio di 18 anni o giù di lì sa benissimo che per un adolescente adesso è più importante avere un iPhone o un telefono, uno smartphone di ultima generazione che non prende la patente. Ha torto, ha ragione, ma è cambiato tutto rispetto a 25 anni fa. Evidentemente nell'avere la patente, nel guidare la macchina, si vede, viene proiettato un minor senso di indipendenza, di autonomia, di libertà rispetto ad essere connesso in rete, twittare, essere su Facebook e quant'altro. La borsa, allora, più 1,90% Milano, più 0,90% Parigi, più 0,40% l'America, meno 0,20% Francoforte e più 0,15% Londra. L'euro su dollaro è a quota 1,2680 e quindi continua a scendere leggermente. Molto bene oggi UX, più 6%, CNH Industrial più 5%, UBI Banca più 4,80%, Banco Popolare più 4,20, Popolare Emilia Romagna più 3,20, Intesa San Paolo più 2,70 come Monte dei Paschi, il 2,2 lo guadagna Unicredit ma anche Atlantia e Tenaris ed Enel, il 2% rialzo di Azimut, l'1,80 quello di A2A, di Telecom Italia, di World Duty Free, di Terna, di ST Microelectronics. Andrea Fontana, Radio Corriere Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera Sebastiano. Allora, allegria, oh, le borse oggi festeggiano, è più del 90% Milano, Francoforte invece è rimasta più al palo, lì c'era un dato di una fiducia dei consumatori in calo. Le banche, ma si sta avvicinando il periodo degli stress test, le banche insomma festeggiano. C'è ottimismo sulle banche italiane, considerate anche sottovalutate, c'è anche qualche gestore che ritiene che le banche italiane possono uscire bene dallo stress test, ma soprattutto che dopo gli stress test e l'asset quality review della BCE, ci sia un ritorno del processo di consolidamento bancario in Italia, e quindi anche quegli istituti, e in fondo diciamo l'asset quality review è come una due diligence bancaria che sì, garantisce ecco, piano perché il programma in Italia, allora, l'asset quality review è la valutazione diciamo di quella della qualità di quello che hanno in pancia le banche, no? Per cui assomiglia a una due diligence, devo tradurre, e cioè a quando nel caso per esempio di un'acquisizione o di una fusione tu vai a vedere punto per punto, a spulciare diciamo quello che c'è dentro una società che vai a comprare. Scusami l'interruzione, ma devo far capire a tutti. Andrea, vai. Esattamente, quindi c'è una fotografia chiara, dovrebbe uscire dello stato di salute degli istituti italiani, e questo potrebbe portare effettivamente un'ondata, ma un ritorno del processo di consolidamento del sistema bancario, e questo fa sì che alcuni gestori, soprattutto investitori esteri, inizino a crederci. Tant'è vero che le borse, Milano in particolare, ha allungato molto di più rispetto alle altre borse europee, soprattutto nella seconda parte della seduta, quando sono intervenuti gli istituti americani, gli investitori americani, e questo ha permesso al FTSE MIB di essere il migliore in Europa. E questo spiega buona parte dell'andamento bancario. Hai ragione a sottolineare che dagli stress test non è che debbano per forza arrivare notizie negative, si chiamano stress test, ma magari scopri che uno regge gli stress meglio di quanto non ci si aspettasse, no? Per cui uno può essere anche premiato. Telecom Italia, veniamo su altri titoli. Oggi cresce meno di altri, poi si riporta all'1,86%. Qui c'è notizia invece su Tarak Ben Ammar, che è uscito dal consiglio di amministrazione e ha usato un'espressione abbastanza chiara per definire l'ipotesi di Truiglio. Sì, ha detto che insomma non siamo a Disneyland, che l'ipotesi forse è un po' fantasiosa fino a questo momento, e il CDA peraltro Telecom non ha avuto indicazioni o contatti o informazioni. Diciamo che questa ipotesi aveva spinto il titolo ieri, quella di investitori australiani, investitori medio orientali sul titolo di Telecom. Oggi l'attenzione si è un po' più spostata sull'attività vera e propria, c'è stato un CDA molto lungo di oltre 8 ore, da cui che si è concluso da poco, e da cui ci si attende soprattutto un risposto per quanto riguarda economia. La vendita di Telecom Argentina. Che succede? La vendita di Telecom Argentina, ma il titolo soprattutto sul finale si è molto apprezzato, e quindi vedremo quale sarà l'esito nel contenuto del CDA di oggi. Allora, vola a 7 pagine gialle, però prima di arrivare a 7 pagine gialle, concludendo, oggi è anche il giorno del sondaggio di Radio Core, come ogni mese, sugli operatori dei mercati finanziari. Avevamo avuto indicazioni abbastanza positive. Oggi com'è andata, Andrea? Oggi diciamo abbiamo avuto da Assium Forex un'indicazione più prudente? di più prudente, soprattutto per quanto riguarda Piazza Affari, è diminuita sotto il 50% la quota degli ottimisti sul mercato italiano in un orizzonte dei prossimi sei mesi. Che cosa farà la borsa milanese nei prossimi sei mesi? Prima erano il 60% gli ottimisti, ad agosto, a settembre è sceso al 46%, in compenso è aumentata la quota di ottimismo per quanto riguarda la riduzione dello spread tra i titoli di Stato italiani e quelli tedeschi. Allora, ultimo titolo, visto che siamo sui migliori e peggiori adesso, Class di Tori più 7,40, continua a fare sali e scendi, Borgosesia più 6,16 percento, fronte opposto Allianz meno 5,60, Sacom meno 4,50. Che è successo a Seat oggi? Beh, c'è stato molto movimento sul titolo, l'azione è arrivata a guadagnare oltre il 7%, poi ha chiuso praticamente sulla parità azzerando i rialzi, ma oggi era un giorno atteso perché era fissata l'udienza per l'omologa del concordato preventivo che quindi farà tornare porterà Seat ad azzerare i debiti e quindi a riprendere la sua normale attività cosiddetta in bonis. Non è arrivata alcuna opposizione alla proposta del concordato, quindi sembra scontato che il tribunale dia il via libera a questa nuova fase di Seat. Certo, una fase molto difficile visto che la società riparte da una capitalizzazione di borsa di circa 20 milioni di euro, diciamo. Allora, per quello che riguarda i migliori e peggiori, dicevo, oltre a Zucchi, IMSI meno 3,70%. Grazie ad Andrea Fontana e buon fine settimana a tutti i colleghi di Radio Corriere sulle 24. Grazie a voi, buonasera. Vedo molti messaggi sul tema dell'iPhone 6 e a fronte della crisi dei consumi. E ripeto, lunedì avremo un lungo approfondimento su questo e parlerà chi i consumi li studia, non chi li osserva come sottoscritto. Qualcuno fa le battute sul fatto che i diciottenni preferiscono adesso uno smartphone piuttosto che la macchina, che un'automobile, come diciamo segno di indipendenza e di autonomia. Mi scrive un ascoltatore che dice: beh, quando dovranno andare in camporella ci provino ad usare l'iPhone. Sì, però Giovanni, apprezzo la battuta, però guardi che forse è cambiato anche quello, nel senso che magari non hanno nemmeno più bisogno di andare in camporella. Adesso non è un mio tema, ci sono altri programmi in questa radio che tendono a trattare in maniera costante certi temi, però forse è cambiato anche quello. Forse in camporella si andava quando c'era un altro tipo di educazione, forse adesso il ragazzo ha più autonomia in casa, non lo so, ma non è questo il tema dei consumi, lo affrontiamo lunedì. Dalla camporella al traffico e poi Mario Platero da New York. E 20 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, Mario Platero dagli Stati Uniti in collegamento con noi per due notizie molto diverse. Una è il dato sul PIL americano cresciuto più delle attese e il governatore della Fed regionale, adesso lo riprendiamo, Fisher di Dallas, dice: beh, se l'economia continua ad andare così rialzeremo i tassi non in estate 2015 ma ad aprile. L'altro è l'incontro Chrysler, o meglio alla Chrysler, tra Renzi e Marchionne. Mario, tra l'altro dovrebbe essere alle 13 ore locale, quindi verso le 19 in Italia, i due, Marchionne e Renzi, terranno la conferenza stampa e poi alle 21 ore italiana Renzi lascerà lo stabilimento della Fiat Chrysler Automobiles per tornare in Italia. Mario Platero, buonasera. Eccomi. Tu sei a dove sei? A Detroit? Sì, sono in questo momento a Detroit, ai quartieri generali della Chrysler, e siamo, diciamo, tutti qua anche con i colleghi e con altre persone perché stiamo aspettando l'arrivo del Presidente del Consiglio. Ci hanno detto però che c'è un po' di ritardo, quindi rispetto agli orari che davi tu prima c'è forse addirittura uno slittamento di un'ora, per cui staremo a vedere, ma siamo qui e fra poco arriverà, ci hanno detto fra pochi minuti, per cui magari mentre parliamo arriva anche in diretta, se no tanto ci sarà Marchionne che lo accoglie, poi andranno a fare un giro alla Chrysler, soprattutto in una divisione della Chrysler molto segreta, dove ci sarà soltanto lui e un'altra persona, cioè Marchionne, il Presidente del Consiglio, e una persona, un ministro che è col Presidente del Consiglio, per vedere questo impianto dove simulano le catene di montaggio per i nuovi modelli, per i modelli del futuro. Per i nuovi modelli o per i nuovi operai? No, perché i nuovi operai li hanno già presi, c'è stato un aumento della forza lavoro del 40%, che sono stati assunti tra l'altro in base a questo nuovo accordo col sindacato, che consente di ridurre del 50% addirittura il costo del lavoro, che era molto elevato ed era fuori mercato. Quindi Diciamo le cose qui. Allora, quindi queste le tappe dell'incontro Renzi-Marchionne, ma chiaramente, come tu ci ricordavi, essendo già tutto slittato di almeno mezz'ora, forse un'ora, è difficile avere aggiornamenti prima delle 20. Invece un dato che già è uscito, se non ricordo male, alle 15 ore italiana, alle 14 ore italiana, è il dato sul PIL americano. Ora, una piccolissima premessa: l'America ha una prima lettura, cioè un primo dato, una seconda lettura, cioè va a rivedere il dato, e poi quello definitivo. Quello di oggi è il definitivo, se no uno pensa che parliamo di un nuovo PIL. Il punto è che nel dato definitivo, beati loro, viene rivista la crescita al rialzo per quello che riguarda gli Stati Uniti, ed ecco perché citavo le parole del presidente della Federal Reserve di Dallas. Più 4,6% il PIL nel secondo trimestre. Mario, abbiamo visto che la spinta è arrivata dagli investimenti delle imprese, più 10%, e dai consumi. Mario? Sì, dunque il passaggio è dal 4,2 al 4,6, come dicevi, quindi l'aggiustamento, la correzione al rialzo dello 0,4%. Non dimentichiamo che nel primo trimestre c'era stata una contrazione del 2,1%, per cui la crescita media dei primi sei mesi di quest'anno è dell'1%. Però indubbiamente, come dicevi tu, questo significa che dopo quella pausa dovuta, lo confermo perché poi molti ascoltatori ci avevano scritto dicendo ma no, cosa dite? Non è l'inverno, no? Noi dicevamo che c'è stato questo inverno durissimo che aveva bloccato l'economia. E in effetti si è recuperato una parte del primo trimestre che era stato fermo, ma comunque la macchina si è rimessa in moto. Perché dico questo? Perché le considerazioni, tu parlavi di Fisher, della Federal Reserve in questo momento non guardano tanto al tasso di crescita dell'economia, ma al tasso di disoccupazione, o meglio ai vari aspetti che vanno a formare il tasso di disoccupazione. E su quello ci sono stati dei problemi. Resta, come dicevi, il fatto che se non sarà l'estate del 2015, sarà l'aprile del 2015, a un certo punto la Fed dovrà aumentare leggermente i tassi. Cosa hanno contribuito? Tu hai parlato di consumi, hai parlato di investimenti, certamente tutto è andato molto bene, ma c'è stata anche una correzione al rialzo nell'ultimo dato delle esportazioni, più 11%, inizialmente era al 10%. E quindi direi che è stato un dato sicuramente molto positivo, quindi sui vari fronti l'economia americana sta facendo bene. Scusami Sebastiano, mi interrompo, sì, perché in realtà in questo momento sto vedendo delle macchine della polizia col flash, la carovana, immagino, del Presidente Consiglio. O c'è qualcun altro in visita, dovrebbe essere lui, diciamo. Sì, non credo che sia Marchionne che arriva alla Chrysler con una carovana di questo genere. Beh, non ancora, diciamo. E quindi, non ancora, ecco. Quindi, ecco la macchina, credo che sia quella. Se vuoi ti racconto dell'arrivo, perché sta scendendo in questo momento dall'auto e c'è Marchionne che lo accoglierà. Comunque torniamo, mentre questo succede, a quello che dicevamo dell'economia, perché poi in fondo a questa economia ha contribuito tutto, ha contribuito anche questa Chrysler, è vero. Settore dell'auto, che con l'aiuto del governo americano poi ha fatto molto bene, perché ricordiamolo, c'è stato un intervento del governo che ha ristrutturato un pochettino tutto quello, l'impianto del costo del lavoro, le concessioni e così via, così via. Ecco che Renzi sta entrando in questo momento e in maniche di camicia, devo dire, senza cravatta, molto rilassato, con la sua camicia bianca, e e si sta avvicinando. Ecco, c'è Marchionne, anche lui devo dire rilassato. Ma si avvicinano a voi o tirano dritto? Fammi capire, Mario. No, no, sono qui davanti a me, sono fermi, stanno. Beh, vuoi fargli una domanda? Ne siamo in diretta, se hai ancora un minuto. No, possiamo, ci è stato chiesto di non urlare nel momento in cui si salutano. Allora parla molto a bassa voce, Mario, parla molto a bassa voce per non disturbare, per favore, Renzi e Marchionne. No. Esatto, andiamo in fading, esatto. Per favore, lo dico in regia. Tu continua a parlare, Mario, perché vogliamo capire cosa stanno facendo Renzi e Marchionne. Raccontaci. Si stanno salutando, ecco, il Presidente del Consiglio ci sta salutando, si stanno avviando a quella che sarà la loro visita, il loro giro, con lui, col Presidente del Consiglio. Vedo. Mitico Mario Pratero, eh? Cioè, non è facile gestire Pilusa e raccontare l'arrivo di Renzi in visita a Marchionne. Va bene, lunedì l'appuntamento invece sui consumi. Giustamente, forse la chiave di lettura l'ha raggiunta un ascoltatore poco fa. Il problema è che adesso senza iPhone 6 non vai in Camporella, non ci vai, o ci vai a raccogliere la cicoria. Ed è forse proprio questo il tema del perché alcuni consumi salgano ed altri no. Al di là della battuta, ne parliamo lunedì. Da Sebastiano Barisoni le auguro di una buona serata e un buon fine settimana, soprattutto a chi lo passerà lavorando. Radio 24, la passione si sente.